Thank you. Thank you. Thank you. 哎呀呀呀，哎呀呀呀，呀呀啦呀呀，哎呀呀。

Hey,

Di ba di ba ba da di ba ba, ba di ba ba di di di ba di ba di ba, la di di ba ba ba. de baba, some tango-ish. Ooh.